Oh, accendo la televisione, ma quanti cartomanti che diventano finzione. Bruciamo in questa situazione, cade la nazione, ogni politico dentro una prigione. Vi farei campare con il nostro stipendio, 1000 euro è già tanto, è un affitto che è un impegno. Rubar le loro droghe, così stanno senza. Vediamo che leggi fate con la crisi d'astinenza. Mensa, ma quella dei poveri a mangiare, tanto uguale non pagate, ma il caviale lo scordate. E il limite è, alla fine del mese, con troppe spese, un governo che non pensa a sto paese. Parlano, promettono, in questo sono abili, poi cambiano solo i loro abiti politici. Meglio chiamarli comici, sono bambini che promettono altro che uomini. Vai, solleva i pugni, fai fuoco per ogni minimo. Fotti la strada, se il cielo ti fa da limite. Fra, lo sanno bene, diffido delle caserme. Tu sai che farci culo è solo un sogno per ste merda. Io vivo, parchi dell'ero, falangi sopra i grilletti. Se scrivo, moriamo martiri come Sacco e Vanzetti. Fanculo, vita precaria e tu non puoi capire cosa. Voglio il lavoro per vivere, non morire. Io mangio merda, non vedo democrazia. Lavoro facile, fragile, ai miei fan del Beccaria. Padre, spezza la lacrima, l'odio, lacera i fogli. La fame, ciò che divide le mani dei cieli spogli. Tanta piombo alle strade, ero i figli del Mazzini. Fighters, non veste l'eschimo, parla coi San Pietrini. Fuoco, non è reato, il ferro appaga le mani. Voi non odiatemi se scrivo cosa? Che la giustizia è morta assieme a Giuliani.